Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, soprattutto chi magari è in fila, perché sentire le previsioni stradali, insomma, c'è grandissimo traffico, quindi ci ascolteranno molto volentieri. Bene, oggi parleremo, l'ho detto prima, di un aggettivo. È un aggettivo che è naturale. Naturale, e mi viene di fare una battuta. Si può bere o non si può bere questo aggettivo naturale? Bene, vedremo questo perché. Ora scoprirete il perché di questo interrogativo. Vedo già che dal sito Gastronauta ci sono numerosi interventi, quindi è un argomento che interessa molto, parlare di vini e di vini naturali. Io da anni parlo di vini cosiddetti naturali, qualcuno ha detto che è una definizione pilatesca, ma forse sarebbe stata forse molto più furba. Bene, partiamo dall'origine di tutto, perché in una famosa enoteca di Roma, l'enoteca Bulzoni, e che abbiamo in linea con noi Alessandro Bulzoni. Buongiorno Bulzoni. Buongiorno. E è arrivata un'ispezione da parte dell'Ispettorato della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e ha redatto un verbale perché c'era sullo scaffale, c'erano vini naturali e addirittura può finire nel penale questa vicenda, quindi una vicenda che poi dopo queste ispezioni, a quanto mi risulta, ce ne sono state tante altre in giro per l'Italia, non è l'unica, quindi vuol dire che viene da dire retata, ma retata sicuramente non è la parola giusta, ma per far capire. Quindi discuteremo di questo e avremo dei personaggi che ci potranno spiegare il perché. Numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Quindi chi volesse intervenire su questo argomento lo può fare. Allora cominciamo da Alessandro Bulzoni. Bulzoni, cosa è successo? Buongiorno a tutti. Vi racconto che appunto qualche giorno fa sono venuti due funzionari del Ministero delle Politiche Agricole a contestarmi la dicitura vini naturali e vini da uve bio su uno scaffale appositamente selezionato per questo tipo di prodotti. Noi crediamo molto nel proporre le diverse tipologie di vino che si vengono immesse sul mercato e vogliamo dare risalto a questo tipo di prodotto affinché il consumatore possa scegliere e decidere più liberamente. In questo momento non possiamo mettere in evidenza questo tipo di prodotto perché non è previsto dalla legislazione. Ecco, la fermo subito perché abbiamo con noi il dottor Emilio Gatto, dirigente dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole, che ci spiegherà perché allora è stato redatto questo verbale e perché non si può usare l'aggettivo naturale. Buongiorno dottor Gatto. Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Paolini. Alcune rapide precisazioni. Innanzitutto, insomma, non c'è stato nessun atto ancora di sanzione, di contestazione di irregolarità nei confronti dell'enoteca o degli operatori, dei produttori del vino. E non c'è, naturalmente non c'è stata nessuna retata. Noi abbiamo fatto, gli ispettori di Roma in particolare, hanno fatto questi controlli nell'ambito della nostra ordinaria attività di verifica dell'etichettatura dei vini alla commercializzazione per tutelare i consumatori. In quest'ambito c'è una grande quantità di irregolarità e i consumatori spesso sono tratti in inganno proprio dall'etichetta del vino. Noi naturalmente siamo molto favorevoli a che il consumatore abbia tutta la possibilità e la facoltà di effettuare una libera scelta, però deve farla in maniera consapevole e soprattutto in maniera tutelata. Il problema fondamentale, per arrivare subito al nocciolo della questione, con i vini che lei secondo me giustamente ha definito cosiddetti naturali, è proprio questo, che mancando una regolamentazione della materia abbastanza stringente che indichi ai produttori o a tutti coloro che vogliono ottenere e commercializzare questi vini che cosa devono esattamente fare per definire un vino come naturale, esponiamo tutti i consumatori a degli abusi, dei possibili eventuali abusi che vanno assolutamente evitati. Bene, lei ha spiegato perfettamente il tutto. Bulzoni, ha qualcosa da aggiungere? Che posso dire? È giusto che il consumatore vada tutelato, ma è giusto anche che il consumatore conosca la reale, come dire, come vengono fatti i vini e che si possa dare l'opportunità di scrivere cosa contengono questi vini se prodotti con uso di sostanze consentite dalla legge ma che correggono il vino, oppure prodotti che si vengono proposti senza uso di sostanze correttive. Posso pensare ai lieviti selezionati o altri prodotti. È bene che il consumatore questo lo sappia. Bene, io la ringrazio Bulzoni e ringrazio anche Emilio Gatto perché veramente ha spiegato le motivazioni che poi diciamo che erano note. Il cosiddetto che io ho usato 2 anni fa era proprio perché immaginavo che prima o poi sarebbe successo il bubbone. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Eccoci di nuovo a parlare di questo aggettivo naturale, è bevibile o non è bevibile, mi viene sempre da chiedere, però voglio fare una chiosa. Innanzitutto ricordo numero verde 800 24 00 24, messaggi SMS 349 238 6666. Voglio fare una chiosa perché mi viene da pensare che ormai con questo aggettivo naturale c'è una cucina che viene definita naturale, ci sono tanti prodotti alimentari, non solo vino, che vengono definiti naturali. Allora si può usare, non si può usare? Cioè d'ora in poi ci saranno dei provvedimenti su questo, perché anche questo è un modo di porsi di fronte alla realtà, non solo di fronte al vino. Ma ora abbiamo con noi un produttore importante perché è presidente di Vinnatur, che è un'associazione viticoltori naturali europei. No, ecco, devo dire naturali europei. Buongiorno ad Angiolino Maule. Ciao Davide. Ma allora cosa facciamo? Censuriamo questo viticoltori naturali europei, Angiolino? No, assolutamente no, saranno tutti da premiare invece. Ecco, tu cosa ne pensi di quello che sta succedendo appunto con questo intervento? Ringrazio il Ministero delle Politiche Agricole e il dottor Emilio Gatto per la visibilità che ci sta dando, che alla fine è solo positività che stanno portando per noi, no? Ma io sai, da produttore, da uomo d'azione che sono sempre stato, sarei quello che propone le cose, no? Sarei vino naturale, vuol dire prodotto dalla terra con l'aiuto dell'uomo, punto, e non con l'aiuto della chimica, capisci? Sicché noi, hai citato l'associazione nostra, che è un'associazione secondo me molto importante in questa Europa, che questa vecchia Europa che si muove forse troppo ridento ancora, noi con grande semplicità, con una modica cifra, una cifra anche abbastanza abbordabile, ci facciamo tutti gli anni le analisi a tutti i nostri produttori di metalli pesanti, stamine, ocratossina, solforoso totale, 160 residui di pesticidi, no, suddivisi su antibotritici, antipronosporici, antiuridici, insetticidi. E abbiamo avuto in questi 4 anni una crescita impressionante, pur essendo tutti produttori bio, i primi anni qualcuno che sgarrava, qualcuno che abbiamo dovuto mandarlo via, qualcuno che è rimasto, abbiamo avuto una grandissima crescita per questo e oggi possiamo pubblichiamo i positivi, no? 43 di noi che non hanno utilizzato né pesticidi né solforosa, 25 di noi che sono sotto 30 mg litro, stiamo facendo passi da gigante nella conoscenza, coinvolgendo il mondo scientifico, come sai benissimo, io sono un malato di voglia di imparare, Ecco. Stiamo avendo grandissimi risultati per questo, sì che prodotto naturale, il consumatore, come diceva Alessandro, è giusto che venga tutelato, che sappia quanti pesticidi vengono usati per produrre i vini convenzionali e che possa scegliere finalmente, siamo in questi anni 2012 ed è giusto che il povero consumatore sia anche informato. Sì che ringrazio un'altra volta tutta questa visibilità che ci state dando. Grazie ad Angiolino Maule, grazie. Sentiamo, grazie, Alessandro. Ciao, Alessandro dalla provincia di Roma, un radioascoltatore. Buongiorno Alessandro. Salve, buongiorno. Prego. Buongiorno, volevo chiedere se per caso ci si può togliere d'impiccio, allora in questo caso dai controlli, segnalando per esempio sul menù di un ristorante sull'enoteca, insomma, la dicitura vini cosiddetti naturali anziché rimanere soltanto nell'ambito dei vini naturali, ci si può togliere, diciamo, il problema di eventuali contestazioni? Ma io non lo so, io ho usato questo cosiddetti naturali perché sicuramente vuol dire molto, cioè cosiddetti vuol dire che alcuni li definiscono naturali, quindi potrebbe anche essere, come posso dire, una disputa linguistica o filosofica molto importante. La mia è stata anche in passato, è stata semplicemente una battuta, comunque può essere una proposta. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Abbiamo con noi una enologa, abbiamo un'enologa, Dora Marchi, alla quale chiedo, Marchi, si può fare questa linea di distinguo tra vini convenzionali e chiamiamoli vini biologici e biodinamici, chiamandoli gli altri naturali, ma gli altri sono o non sono naturali convenzionali? Per quanto riguarda il termine vini naturali, credo che abbia spiegato bene il dottor Gatto che la norma non lo prevede. C'è stata proprio una discussione prima che sia stato creato la possibilità di dire vini biologici, perché il termine naturale è un termine che è per tutti i vini. Il vino è per sua natura naturale, quindi dal momento che dalla prossima vendemmia si potrà scrivere vino biologico, credo che la cosa sia già risolta. Si potrà fare magari una differenza più tra vini artigianali del territorio e vini industriali. Penso che la differenza maggiore si possa fare in questo senso. Ecco, per tornare al discorso biologico, però diciamo che è stata fatta questa nuova disposizione con il discorso dei solfiti, ma ad esempio il biodinamico non ha una propria legislazione, di conseguenza... No, in effetti il biodinamico non ha una propria legislazione e sarebbe opportuno che l'avesse anche il biodinamico, perché altrimenti si crea una pubblicità ingannevole e discriminatoria per il consumatore. Il consumatore deve avere chiarezza e deve poter scegliere in piena libertà quale vino vuole bere. Ecco, il vino è l'unico, forse l'unico, chiamiamolo alimento, chiamiamolo bevanda, che non ha, diciamo, una etichetta in cui vengono inseriti, diciamo, tutti i contenuti del vino, quindi cosa contiene. E questo perché, diciamo, il vino è tutto naturale? No, perché la maggior parte delle sostanze che si usano nel vino non vengono poi, non ne rimane traccia, assolutamente. E comunque da luglio in poi, quindi ormai ci siamo, si dovrà scrivere in etichetta se si sono usate alcune sostanze, come ad esempio le gelatine, comunque le sostanze di origine animale per le chiarifiche, che possono dare problemi al consumatore. Ho capito, vedo un sms di Maurizio Gili, io gli chiedo di telefonare, caro Gili, telefona invece di mandarmi questo sms, vorrei ascoltarti, e quindi se telefoni ti do diritto di precedenza, grazie. E abbiamo con noi Antonello Maietta è presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, e volevo chiedere se l'Associazione Italiana Sommelier ha una posizione su questa vicenda, sull'aggettivo naturale, e magari che ce la racconti. Buongiorno. Guarda, Antonello. Ciao, buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Allora ti dico, questo sarà uno dei due temi del nostro prossimo congresso nazionale che faremo a Roma l'1 e il 2 di ottobre, quindi anche l'AIS interverrà pure nel dibattito del vino naturale, del vino biologico, del vino biodinamico. Tra l'altro, così mi risparmio una mail, ti dico subito che sei tra gli invitati, tra gli ospiti a questo dibattito che faremo a Roma nel nostro congresso. Grazie. Quindi la posizione qual è? Ma io intanto ho analizzato quello che è stato, mi domandavo in questi giorni qual era esattamente il problema, l'ho capito in parte, però dico, da consumatore questa volta, entro in un'enoteca, sono un consumatore non avveduto, poco avvezzo, poco conoscitore della materia, vedo in uno scaffale scritto vini naturali e nell'altro non vedo nulla, il problema che mi pongo è, diciamo, allora questi sono naturali e gli altri cosa sono invece? Sono vini che mi fanno male? E me lo pongo invece da consumatore evoluto, sono un consumatore che sa esattamente cosa si intende oggi per vini naturali, quindi questi vini fatti artigianali, fatti con attenzione alla chimica, oppure con assolutamente senza l'uso della chimica. E dico, faccio un atto di fede però, perché non c'è un regolamento che mi dice esattamente per avere questa denominazione quale norma devo sottostare, faccio realmente un atto di fede. Ma ripeto, con questo dico, per fortuna che oggi ci sono molti produttori, Angiolino uno di questi, ecco, e ci sono molti otticari come Alessandro che hanno un'attenzione particolare a questa situazione, però tuteliamo anche il consumatore. Se ci pensi, oggi Vinitaly, quando ha fatto la manifestazione quest'anno di Vinita, ha fatto un po' un atto pilatesco, non essendoci un protocollo ha chiesto a tutti i produttori di fare un'autocertificazione, se permetti, Angiolino ha detto alcuni produttori li abbiamo cacciati dalla nostra associazione, Quindi vedi che c'è sempre lì pronta la situazione, qualcuno che vuol fare il furbo. Quindi mi posso io, consumatore, fidare di un'autocertificazione? Che ne so io poi dopo? Mi fai vedere l'autocertificazione? Se permetti, voglio essere tutelato. Finché non c'è un regolamento, permettimi, da consumatore anche voluto, mi fido poco. Talvolta faccio un atto di fede, perché ce ne sono tanti e sono veramente seri. Bene, volevo chiedere, grazie Antonello, volevo chiedere a Donna Marchi se in Francia, dove la presenza di produttori, diciamo, di vini cosiddetti naturali è molto forte, esiste una legislazione particolare, oppure tutti si devono rifare a quella comunitaria e quella comunitaria non li prevede? Si devono rifare a quella comunitaria. Io non credo ci sia una legislazione particolare, perché anche lì vengono definiti vini biologici, oppure gli altri sono vini convenzionali. Quindi anche i biodinamici e tutto il resto ritengono, cioè, vanno nei vini convenzionali, cioè non possono essere chiamati altrimenti. Ma in così genere i biodinamici comunque rispettano anche il protocollo dei vini biologici, per cui... Certo, possono essere chiamati biologici. Grazie a Dora Marchi e grazie ad Antonello Maietta. Sentiamo Sebastiano da Lugano. Bene, abbiamo uno svizzero in collegamento, un radioascoltatore. Buongiorno. Pronto? Ah, beh, ho già visto chi è Sebastiano. Ciao, sì, Sebastiano. No, io sono il proprietario di Quercia Bella, vivo a Lugano, ma sono italiano dal punto di vista vinicolo. Ho capito dopo, bene. Bene, io volevo dire questo, è un tema molto importante quello che state trattando. Come tu saprai, la nostra azienda è biodinamica da più di 10 anni e biologica dall'88. C'è una soluzione molto semplice a questo problema dei vini naturali, dei controlli, delle certificazioni e della tutela dei consumatori, che è quella che seguiamo noi. Siamo biodinamici, ma siamo certificati biologici sia in vigneto che in cantina. È la cosa più facile da fare. Io devo dirti che anch'io sono molto scettico quando qualcuno mi dice: io faccio un vino naturale, ma sei certificato? No, e che ne so io di che procedure segue, di quali limiti si pone, di quali limiti valica, di quali tecniche ha deciso che sono naturali, anche se magari non sono parte di nessun protocollo. Ho capito. Beh, certo, sicuramente il problema è molto grosso, e però devo dire che bisognerebbe fare molta chiarezza, perché ormai il discorso, diciamo, anche gli appassionati di vino naturale ormai chiedono vino naturale, è diventato nel linguaggio comune, quindi è difficile oggi tornare indietro, secondo me, e inventarsi altri mezzi. La gente continuerà. A Milano c'è un locale che si chiama Rovello 18, che è un po', io considerato, il covo dei vini naturali, e molte persone vanno in questo locale chiedendo vini naturali, perché sanno, lì trovano, diciamo, nella carta tantissimi vini naturali. Comunque grazie Sebastiano, ti ringrazio di essere intervenuto. Narciso da Arezzo, buongiorno. Buongiorno. Voi mi state parlando di biologico con i nostri enologi, grandi dottori, ma dove esiste il vino? Qual è, cosa si intende per biologico? Che il 90% delle cantine comprano il vino dai contadini. Una fattoria che può avere un certo consumo di, parliamo anche di milioni di bottiglie, va bene? Mi devono spiegare dove hanno tutti questi vigneti? Per dire che fanno il vino biologico, perché il vino biologico lo sa dove nasce? Dove nasce? Nel vigneto, nasce in cantina. Non mi dicono delle cavolate, perché non è vero. Bene, no, ha capito questo? Ora non facciamo tutto di un'erba un fascio, insomma, ci sono che coltivazioni biologiche, ci sono coltivazioni biodinamiche, ci sono diciamo chi rispetta ora il regolamento sui solfiti, evidente c'è anche chi gabba, sicuramente, come in tutto, quindi ora non facciamo di tutto un'erba un fascio. Comunque grazie dell'intervento, rimanete con noi, numero verde 800 24 00 24, torneremo fra poco. Eccoci di nuovo a parlare di questo aggettivo naturale, ma io, molti radioascoltatori mi scrivono, mi dicono: beh, laddove c'è scritto aromi naturali, cosa sono? Anche questo è un curioso problema che bisognerebbe veramente disciplinare, perché in molte bibite particolari c'è scritto aromi naturali, ma possono essere tantissime cose. Quindi anche sul cioccolato molte volte si trovano aromi naturali e bisognerebbe andare a fondo per capire cosa sono. Tantissimi SMS che mi chiedono: ma cosa significa biodinamico o biologico? Beh, sarebbe un lunghissimo discorso, magari potremmo anche fare una trasmissione solo su questo, ma forse potrebbe diventare anche un po' così troppo didascalica, però credo che gli organi incaricati di diffondere appunto l'informazione dovrebbero cominciare a fare anche cominciare a comunicare cosa c'è sulle etichette. Ricordo il numero verde 800 24 00 24. Riprendiamo con un personaggio, Luca Gargano, che è presidente di Velier, che è una società importante di distribuzione, ma anche colui che ha creato AAA, che appunto è un gruppo di produttori che potremmo definire cosiddetti naturali. Tra l'altro Luca Gargano mi ha anche detto che a Genova, nella sua sede, ha avuto la visita del Ministero delle Politiche Agricole, appunto dell'Ispettorato Centrale. Luca, e tu cosa ne pensi di tutto quello che sta succedendo attorno appunto ai vini naturali o cosiddetti naturali? Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Sì, in effetti è stato prelevato nella visita a Bulzoni dei campioni di Semplicemente Vino di Cascina degli Ulivi, Stefano Bellotti, che portano in controetichetta la dicitura vino naturale perché non contiene sostanze aggiunte. Ora appunto nel suo estremo la definizione naturale è abbastanza semplice, perché l'uva nella fermentazione produce alcol, CO2 e SO2 in quantità limitate. Quindi se in un'analisi si trovano solo questi elementi, oltre naturalmente alle sostanze e gli elementi minerali che sono presenti nell'uva, questo sicuramente è un vino naturale. Non so se i consumatori sanno che nelle tecniche previste, ora la enologa, si chiamava Marchi mi sembra, sì, dice che il vino per sua natura è naturale, ma noi sappiamo che si può usare l'acido citrico, acido tartarico, acido sorbico, diossido di silicio, ferro cianuro di potassio, bentonite, polividil, polipiridone, cioè ci sono moltissime sostanze che sicuramente è molto facile definire non naturali, direi che è più facile definire cos'è un vino innaturale, senza parlare dei pesticidi. C'è stata una ricerca fatta in Francia dalla PAN, che è il Pesticide Action Network Europe, che ha analizzato diverse centinaia di vini convenzionali, tra cui molti italiani. Innanzitutto i consumatori devono sapere che l'acqua potabile prevede un limite di 0,5% di residui di pesticidi per litro. Ora nel vino, per esempio, il pirametanile, che è considerato cancerogeno, possibile cancerogeno dall'EPA, che è un fungicida, ce ne possono essere 100 miligrammi, ne sono permessi, cioè 200 volte il livello dell'acqua potabile. Quindi purtroppo, bene, poi diranno ci sono gli antociani e altre cose, ma forse il vino, alcuni vini non sono neanche potabili. La cosa che mi preoccupa è che se il dottore Migliogatto desse eventualmente un atto di sanzione dopo aver analizzato Semplicemente Vino e avere trovato in questo vino solamente alcol, le sostanze dell'uva e un po' di SO2 inferiore a 15 miligrammi prodotta naturalmente, se lì nascesse un'azione contro questo, veramente saremmo nel parossismo. Bene, allora aspetteremo e vedremo, perché se è il contrario credo che possa essere un'arma molto importante. Sentiamo Nicola Dacchieti, un radioascoltatore. Buongiorno, niente, io sono radioascoltatore, sono anche produttore di vino, nella provincia di Chieti, Bucchianico. Sì, prego. Io credo che il problema dei vini naturali, che secondo me spesso ci sono molte delusioni in queste bottiglie, in quelli storici forse no, perché hanno oramai una tecnologia molto studiata, però io ho provato ad assaggiare dei vini naturali e ho avuto delle fortissime delusioni, nel senso, non imbevibili, ma quasi, Credo che bisognerebbe applicare un po' di tecnologia non estrema ed avere un prodotto più... Nicola, sì, ho capito dove vuole parare. Io devo dire che ho bevuto molti vini tecnologici che erano la stessa cosa, quindi secondo me ovunque ci sono degli estremi, sia positivi che negativi, quindi come ho detto prima non si può fare di tutto un'erba un fascio. Certo, ci sono molti vini, beh, e in questo momento c'è anche molta improvvisazione, come c'è stata a suo tempo con tanti vini di successo in aree e territori particolari con vini convenzionali. Non credo che questo cambi di molto la realtà. Grazie comunque Nicola D'Acchieti. Io ora ho con noi Giovanni Bietti, che è scrittore di vino ma musicista, e ha scritto anche dei, diciamo, delle guide appunto dei vini, non, lui non li chiama naturali, ma ha fatto questa vini, anzi li chiama vini naturali d'Italia. Bietti, ma io credo che le verrà sequestrata la guida. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Ma credo che non si possa accusare un libro che cerca di fare chiarezza sulle definizioni di fare della pubblicità illegale o della frode in commercio, per fortuna. Comunque, ecco, diciamo, il fatto che esistano dei libri che parlano di questo argomento, il fatto, io adesso chiedo scusa, mi sono collegato solo ora, quindi non vorrei dire cose che sono già state dette da qualcuno prima di me, penso che debba far riflettere. Sono appunto almeno una decina di anni che si parla di vini naturali, e per essere franchi, in Francia se ne sono almeno 30 anni che si parla dei vin nature, quindi ecco, credo che l'argomento meriti una riflessione piuttosto approfondita. Bene, sì, ha ragione anche lei, e oggi ne abbiamo leggermente discusso, però credo che questo casus belli sia importante per poter trovare o delle definizioni o trovare anche molta più chiarezza. Sono d'accordo con lei su questo. Sentiamo Roberto da Ferrara, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, io sono un venditore, tra l'altro, di Veglier, quindi mi ha anticipato Luca nel parlare di vini AAA e di questo movimento, diciamo che sta... secondo me è quello che fa un po' più chiarezza in mezzo a questa confusione di biodinamico, biologico, non si capisce bene. Io sono sulla strada tutti i giorni proprio a proporre questi vini cosiddetti tra virgolette naturali, e purtroppo tante volte mi devo scontrare un po' con quello che è la preparazione, ecco, della gente, come si diceva prima, di chi più preparato, meno preparato, nel capire perché si parla di biologico, perché si parla di biodinamico e perché si parla di naturale, ecco. E secondo me il discorso di Luca Gargano con Veglier, il AAA che sta portando avanti ormai da diversi anni, forse da più di 10 anni, è quello che oggi forse riesce un attimino a scalfire e a fare breccia nel mondo del vino, che in Italia forse produciamo più vino che acqua. Bene, grazie, grazie Roberto, però voglio leggere un SMS che secondo me diciamo colpisce nel segno. La guerra ai vini naturali è cominciata da quando hanno cominciato ad avere rilevanza sul mercato, guarda caso. Luca, cosa ne pensi? Lascio i tuoi ascoltatori, in un momento in cui l'Italia è in una grande difficoltà, penso che andare a attaccare, io trovo che sia giustissimo che si verifichi, che si facciano le analisi se questi vini sono realmente naturali, questo assolutamente, perché siamo uomini e non angeli, questo è logico, però che ci sia proprio un'azione specifica su chi sono dei contadini con le mani, con i calli, che sono gli unici che difendono ancora senza uccidere il territorio, sicuramente c'è una mano pesante che arriva da lontano. Bene, grazie a Luca Gargano. Io avevo invitato l'SMS di Gili a, diciamo, a intervenire. Eccolo qua, buongiorno Maurizio Gili. Sì, buongiorno Davide. Sì, il tuo SMS non lo riuscivo a capire molto bene, però so che tu centri sempre l'obiettivo. Eccoti la parola. Ma perché è molto complicato in realtà, ma io volevo solo dire che non confidiamo troppo nell'etichetta ingredienti e nelle analisi, perché ci sono tutta una serie di cose che alle analisi non sono rilevabili, l'ha già detto Dora Marchi, no? Per esempio il discorso dei lieviti selezionati, non c'è laboratorio che mi dica se ho usato o no i lieviti selezionati, quindi c'è abbastanza confusione. Vorrei dire questo, io credo che un protocollo ufficiale con una certificazione sul naturale non ci sarà mai, un po' perché i produttori non si metteranno d'accordo su questo protocollo e un po' perché il resto della filiera si opporrà dicendo ma come, se quelli naturali, i nostri cosa sono, artificiali. Quindi credo che ci possano essere dei marchi privati come quello di AAA in qualche modo in cui i produttori dichiarano quello che fanno, oppure esiste la famiglia del biologico. So che molti produttori considerano queste norme troppo diciamo troppo larghe, penso che hanno anche ragione, però diciamo che siccome nel grande ci sta il piccolo, dentro quella famiglia ci può stare anche il vino che segue dei protocolli più stretti. Le altre soluzioni onestamente non ne vedo. O c'è il rapporto fiduciario tra il consumatore privato e il produttore, ma nel momento stesso in cui si inserisce un intermediario questa cosa non funziona più, c'è bisogno di un qualche segnale di certificazione. autocertificazione. Il discorso autocertificazione è un termine sbagliato, secondo me. Non esiste l'autocertificazione in questo senso. Ci può essere una dichiarazione, perché un'autocertificazione è un'assunzione di responsabilità. Cioè, se io dichiaro che sono Maurizio Gilì ufficialmente, invece non lo sono, posso essere perseguito. Se io dichiaro che faccio un vino naturale e non è vero, in realtà nessuno mi può perseguire, questo è il concetto. Bene. Scusa se io ti ho sempre chiamato Gili, non ti ho chiamato con l'accento, quindi ora so che sia Gili, quindi Gili. Grazie Gili. Io voglio chiedere a Giovanni Bietti questo. Abbiamo sentito prima un radioascoltatore che ha detto appunto sui vini cosiddetti naturali che è molto deluso, che ancora devono imparare ed altro. Lui che fa ogni anno appunto fa questa guida, cosa ne pensa? Io intanto devo dire la verità, sto ancora aspettando che qualcuno mi convinca in maniera assolutamente inequivocabile di che cos'è un vino buono. Quindi sul concetto di qualità probabilmente dobbiamo cominciare a chiarirci. Una cosa è certa, che ci sono dei produttori, che sono quelli di cui cerco di parlare nel mio libro, che perlomeno applicano un criterio, come dire, quantitativo, cioè meno sostanze aggiunte sia in vigna sia in cantina si traducono in un vino che oggettivamente, questo è un fatto, io lo sperimento su me stesso naturalmente, ma oggettivamente ha delle qualità soprattutto di tipo gastronomico, digestivo, che sono mediamente superiori a quelli dei vini invece ottenuti tramite grandi interventi, tramite massicci interventi chimici in vigna e tramite forti interventi tecnologici in cantina. Questo forse è il discorso più importante. Bene, grazie Giovanni Bietti. Ti rispondo io sulla qualità, perché c'è stato un grande enologo francese che ha detto che la qualità di un vino dipende dalla qualità del degustatore, e siccome la qualità del degustatore non esiste, puntini puntini. Eccoci di nuovo sulla parte finale di questo aggettivo naturale, si può bere o non si può bere questo aggettivo, ma io voglio ripetere, insomma, secondo me sacrosanto può essere questo intervento sul vino, perché non esiste appunto questo disciplinare o questa regolamentazione, però io vorrei che fosse fatto chiarezza su tutti i prodotti che portano questo aggettivo naturale, soprattutto su quelli che portano l'aggettivo aromi naturali, e quindi lì ci sarebbe veramente da divertirsi. Bene, sentiamo Carmen D'Acune, una radioascoltatrice. Buongiorno Carmen. Buongiorno signor Paolini, ascolto sempre perché sabato mattina sono libera. Bene, ecco, va benissimo, non ha niente da fare, mi ascolta, d'accordo. Mi no, dica. Non è in quel senso, nel senso che sono interessata per quanto non ami il cibo, no. Amo i vini, bene, eccetera. Mi dica. È una vita che volevo chiederle questo. Sì. Dunque, io in giro per il mondo, a Londra, eccetera, trovo spesso vini israeliani. Cercherò di essere rapidissima. Ecco. I vini israeliani. Dunque, conoscendo perfettamente, non sono ebrea, ma conoscendo perfettamente le regole alimentari ebraiche. Sì. So che si possono considerare abbastanza naturali, non so quanto, volevo poi una sua eventuale un giorno trasmissione a questo proposito, naturali i vini ebraici, non solo, ma mio marito, Armito Cuno, ha lavorato 2 anni per i Marchesi di Barolo. Sì. E vi dico una curiosità, cioè mio marito l'ha visto, lo sa, che 2 giorni durante la vendemmia la vigna, non so come chiamarla, è chiusa. Perché vengono i rabbini ebraici a fare la vendemmia perché si fanno il loro vino. Sì, perché fanno il vino kosher, probabilmente. Kosher, esatto, esattamente. Bene. La kasherut è la loro regola alimentare, per cui non possono mettere un sacco di additivi, bene, eccetera, eccetera. Magari io non li trovo, li ho trovati. No, guarda, si trovano, guardi, l'altro giorno in un ristorante mi hanno fatto assaggiare un vino israeliano bianco. Grazie Carmen, ora non possiamo fare una trasmissione su questo, ma chissà, un giorno potremo anche parlare appunto del vino kosher. Ora abbiamo con noi Arianna Occhipinti, che è una produttrice siciliana ormai nota in tutto il mondo, e gli voglio chiedere se lei produce vini naturali. Buongiorno Davide. Sì. Io produco vino fondamentalmente, sempre di più amo non etichettare e non etichettarci, perché dobbiamo porci delle domande se usiamo questo termine naturale per primeggiare sugli altri, se usiamo perché pensiamo che i nostri vini siano più buoni, per identificarci. Io penso che sempre di più dobbiamo lavorare sul prodotto, sul territorio, sul comunicare quello che facciamo, al di là di metterci delle etichette che secondo noi ci fanno primeggiare sugli altri. Io in quest'ultimo periodo sto sempre cercando di allontanarmi proprio dall'essere identificata come produttrice naturale. A me piace fare vino nella mia zona e questo è quello che voglio comunicare. Al di là del processo, che poi è ovvio che amo questo processo, amo un processo sempre con, che utilizzi al minimo l'impatto, un impatto insomma forte nei confronti della natura e dell'agricoltura. Però è ovvio che non dobbiamo utilizzare termini a volte che poi confondono, come quindi è stato dimostrato nell'ultimo periodo, e che possono purtroppo poi darci anche la zappa sui piedi. Quindi tu dici che bisogna chiamare il nome col nome del produttore, il nome del vitigno, e diciamo, e questo è sufficiente molte volte per far capire chi c'è dietro questo vino. È sufficiente insomma, ovviamente, sulle persone che poi indagano un po' di più, che sono più curiose, perché ovviamente poi le persone più informate, gli appassionati di vino, sanno cosa stanno bevendo. Certo. Non penso che i veri appassionati di vino bevano certe cantine perché sono naturali, bevono quelle cantine perché quel vino gli piace particolarmente e perché sia buono. Bene, grazie, perché sei stata molto chiara e devo dire che hai lanciato così una linea secondo me molto importante. Chiedo a Andrea Grignaffini cosa ne pensa. Sì, ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ma guarda, io penso che innanzitutto era un po' la cronaca di qualcosa che tu era già annunciato. Certo, certo, tanto sì. Tu no che piove, tante volte sì, abbiamo parlato anche io e te. Insomma, il problema che soprattutto in questo momento, un po' in cui i vini, tra virgolette, naturali, e così siamo a scanso di equivoci, non censurabili, stanno avendo davvero un ottimo successo, era ovvio che qualcosa succedesse. È anche vero che un problema, se fossimo dei marziani, un problema c'è, cioè è un problema proprio linguistico e giuridico. Cosa ci sta dietro a un nome, a un'etichetta che potrebbe anche essere messa bellamente anche per frodare il consumatore? Insomma, è una situazione molto molto complessa. Io nell'editoriale dell'ultimo Spirito di Vino, che sarà in edicola a fine mese, di solito non pubblicizzo mai quello che faccio, però ho trattato i vini biologici e la nuova legge dei vini biologici, che devo dire che anche questa, a parte che è complicatissimo uscirne perché è una serie di rimandi su rimandi e rimandi, penso che anche questa è un'altra gatta da pelare. Sì, un'altra gatta da pelare, perché la montagna che porta lì un topolino, ma la montagna è una montagna legislativa enorme, che in realtà anche questa penso che poi avvantaggerà i soliti noti, non certo penso i vini biologici, di cui avevamo insomma ottimi esponenti durante la radio, insomma. Bene, sentiamo un radioascoltatore, Mirko da Ferrara. Veloce Mirko, perché ho pochi secondi. Buongiorno Paolini, sarò molto sintetico anche perché mi sembra abbiano detto tutti. Domani si svolgerà vicino al lago, sul lago di Garda, il raduno dei sovversivi del gusto, che sono un gruppo di produttori che si sono messi insieme per dare un'immagine diretta della produzione enogastronomica italiana. L'autore del libro, che si chiama Michele Marziani, dice sempre i sovversivi del gusto non sono i più bravi, non sono i più belli, ma ci mettono la faccia. Quindi io penso che oggi naturalità nel vino, come nei altri prodotti gastronomici, sia molto legata al rapporto diretto col produttore, come ha detto anche Maurizio Gili. Quindi gli argomenti sono molto difficili, anche la burocrazia impedisce spesso al consumatore di capire bene che cosa ha di fronte, quindi essendoci tanti strumenti di comunicazione, io penso che il consumatore oggi la cosa più importante è che si fidi di chi ci mette la faccia, di chi racconta veramente quello che fa. Poi dopo sarà al consumatore scegliere il livello di integralità del prodotto che più gli aggrada. Bene. Se è quello del prodotto meno lavorato o ha lavorato in diversi modi. Grazie Mirko, e devo dire che buona parte degli SMS che sono arrivati, tutti parlano di rapporto diretto col produttore, di andare in cantina e vedere. Tutti non se lo possono permettere, vero Andrea? Non è che tutti possiamo andare a vedere nelle cantine. Già, e poi anche vedere le cantine, uno potrebbe vedere la facciata A e la facciata B, è veramente una cosa molto complessa. Io poi c'è anche un'altra cosa, quanto è frastagliato e articolato questo mondo naturale, che è un po' come nei gruppi, diciamo, delle fasce estreme politiche, sinistra e destra, si frazionano sempre di più. Anche questo forse non avvantaggia una comunicazione molto chiara, molto precisa. Quelle che l'hanno fatta meglio è chi ha utilizzato un escamotage linguistico, come abbiamo sentito prima Luca Gargano, che ha tolto Triple A, certo. Quello è un significato sicuramente che si legge nell'acronimo delle tre parole, insomma. Grazie Andrea, grazie. Prego. Andrea Grignafini, abbiamo chiuso questo giro, io auguro a tutti un buonissimo weekend, magari meno trafficato, e ricordo forse cosiddetti naturali, chiamiamoli cosiddetti naturali, vediamo se riusciamo a deludere le maglie della polizia delle politiche agricole. Io vi do appuntamento con questa trasmissione in replica domani alle 18 e domani sempre alle 11.15 con il Raposo del Guerriero e tutti i giorni alle 11.05 23.05 con la pillola del gastronauta. Buon weekend a Davide Paolini.